Perché il sorriso di uno sconosciuto per te è tanto, tanto più importante di me. Perché il bacio a mano di un cretino per te è tanto, tanto più importante di me. Perché io sono stanco di aspettare e di sperare che tu ritorni a cercarmi. Perché sono stanco, stanco di desiderarti, di restare solo a piangere e guaire come un cane, perché tu preferisci ridere con gli altri che parlare con me e piangere di noi, perché tu preferisci restare sola e le tue mani e i tuoi pensieri no. Più perché io sono stanco di aspettare e di sperare che tu ritorni a cercarmi, perché tu sei sempre la più grande di tutti. Ed io sono quel poco, quel niente che sono. Io ti dico, non aver paura, non mi farò più vedere da te. E ti dico, io ti dico, basta così.